Rassegna Stampa Europa. Cari ascoltatori, un buongiorno da Gigi Donelli, da Paolo Corleoni in regia. Benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alla rassegna stampa con un taglio specifico europeo. Come viene vista, raccontata, descritta, accusata, attaccata l'Unione Europea nello spazio enorme dei 500 milioni di cittadini e naturalmente delle migliaia di testate che ogni settimana, ogni giorno raccontano questa fase complessa della storia appunto dell'Unione e non solo. Bene, cominciamo oggi cercando di portarvi ogni sabato appunto a esplorare anche degli spazi linguistici diversi da quelli consueti. Quasi inevitabile per iniziare partire dall'estremo sud, sud-est dell'Unione Europea. Cominciamo dunque da Cipro. My dignity now is intact. La mia dignità è intatta. Sono fiero della mia gente e credo che adesso tutti noi ci siamo uniti come un uomo solo. E la signora Merkel deve capire che i ciprioti hanno la loro dignità. Ms. Merkel have to understand Cypriot has dignity. Noi siamo la nuova generazione e abbiamo dei sogni. E vogliamo combattere per i nostri sogni, non vogliamo essere schiavi. Noi odiamo l'Europa. Sono ladri patentati. Vogliono prenderci i nostri soldi e distruggere la nostra nazione perché noi amiamo i russi. Avete sentito dunque voci che arrivano dall'isola, naturalmente una selezione che però in queste settimane insomma rischia di essere abbastanza facile da realizzare. Dunque noi odiamo l'Europa, la crisi economica, quella delle banche che scende in piazza. Ma allora sentiamo anche, leggiamo insieme alcuni passaggi invece di commenti delle testate internazionali. Cominciamo dalla Spagna, da Madrid, El País, quindi un grande quotidiano, un grande gruppo editoriale, Javier Vidal Folk, che scrive: il caso cipriota è davvero sconfortante. Fino al 2007 l'isola riscuoteva a malapena le imposte. Negli anni 90 è a Cipro che Slobodan Milosevic era andato a nascondere gli 800 milioni di dollari che si era portato via dalle casse jugoslave. Sono le banche cipriote ad accogliere, riciclare e rimettere in circolazione i soldi sporchi in arrivo dalla Russia e nello specifico i capitali messi insieme grazie alla speculazione petrolifera. Secondo la CIA, scrive ancora Vidal Folk, lo ricordo, su Il País, dunque da Madrid, secondo la CIA dunque l'isola guadagna anche sulla tratta delle Filippine e delle Dominicane sfruttate a fini sessuali. Il grande porto di Limassol è la capitale delle imbarcazioni che eludono ogni normativa. Le loro attività oscure approfittano della bandiera cipriota che ormai somiglia vagamente a quella dei pirati. L'elite finanziaria intrattiene, proprio come in Irlanda, relazioni incestuose con la destra politica. Il ministro delle finanze, Michalis Sarris, che è andato a chiedere agli amichetti di Mosca unguenti per le ferite delle banche, nel 2012 era presidente del consiglio d'amministrazione dell'istituzione finanziaria che sta vivendo la peggiore catastrofe, il gruppo Lucky. E poi Vidal Folk amplia il ragionamento, riflette su una questione di fondo che è: perché mentre abbiamo rischiato di lasciar colare a picco Cipro, altri paradisi fiscali se ne stanno così tranquilli? E fa i nomi e cognomi, anzi in questo caso i nomi, visto che sono stati o comunque entità fisiche, e sono il Lussemburgo, le piccole isole britanniche come Man e Guernesey. Infine, forse un giorno, scrive, il Lussemburgo, la Svizzera, le isole britanniche contrarranno la malattia cipriota. Questi territori già covano qualche malattia. Per evitare di chiedere ai contribuenti tedeschi o spagnoli di salvarli e per scongiurare la possibilità che i titolari di conti non garantiti paghino per porre rimedio agli errori, c'è una soluzione: far saltare in aria i limbi fiscali. Sì. dedica righe pesanti a Cipro anche di Economist, di Economist in edicola proprio questo fine settimana. Nello spazio che come al solito è dedicato all'Europa, quello di Charlemagne, si parla della crisi cipriota e dice: la crisi cipriota ha preteso il primo scalpo. Lo scalpo è proprio quello di Michalis Sarris, di cui abbiamo appena sentito parlare, il ministro delle finanze che ha dato le dimissioni. E scrive di Economist che Sarris è durato meno di 5 settimane e non è l'unica persona che di fatto deve pagare il conto di questo grande guaio. Effettivamente c'è già chi vuole un'altra testa, che è quella di Jérôme Dijsselbloem, l'olandese che guida l'Eurogruppo, il sistema dunque dei ministri delle finanze. E si interroga The Economist: quale sarebbe la sua colpa? Forse è proprio quella di aver detto la verità. Ha presentato la decisione pretesa dall'Unione di forzare azionisti e correntisti dei depositi delle due più grandi banche cipriote, dunque ha preteso che pagassero il fardello della crisi, e questo a quanto pare è stato davvero troppo. Tant'è, Dijsselbloem rimane al suo posto, ma sicuramente, come spiega The Economist, questo è un tema molto delicato che si svilupperà e che già si sviluppa nella stampa europea. Insomma, Cipro, chi sono i cattivi a Cipro? È davvero la Germania, l'Europa, come gridavano nel file che abbiamo sentito all'inizio di questa trasmissione alcuni correntisti ciprioti, oppure no? So weit sind wir also gekommen. Mit deutschem Vermögen soll das russische Schwarzgeld. La Germania dunque. Allora, un altro titolo, un'altra testata è Handelsblatt, dunque quotidiano economico tedesco, il conto dell'eurocrisi. In realtà, scrive Handelsblatt, alla fine lo paga sempre il risparmiatore. Una conclusione sconsolata, ma per certi versi inevitabili, quello che appunto Handelsblatt trae sulle politiche perseguite dagli stati dell'Unione monetaria negli ultimi anni. Così il quotidiano finanziario più diffuso della Germania dice: ormai tutto è possibile, l'unica cosa certa è che a pagare alla fine sarà sempre il cittadino. Spiega l'articolo: lo Stato conosce molti modi per arrivare ai soldi, cosa così da far partecipare i cittadini al processo di riduzione del debito. Alcuni sono già finiti nel dimenticatoio, altri appaiono insostenibili, mentre altri ancora sono da tempo in azione. In fondo, la differenza tra risparmiatori di Cipro da una parte e quelli degli Stati Uniti o dell'Eurozona dall'altra non sono poi così grossi, scrive Saumil Parikh appunto all'Handelsblatt. Parikh è un top manager di PIMCO, il più grande fondo di investimento privato del mondo. La crisi di Cipro dunque, che come in altri casi porta a un tema più ampio, che è quello dei segreti e dei paradisi fiscali. Beh, proprio questa settimana una grande inchiesta condotta dai 5 grandi quotidiani lancia l'allarme sui centri della finanza offshore. Uno dei più impegnati su questo fronte, il francese Le Monde, scrive: quanti buoni propositi abbiamo sentito all'indomani della grande crisi finanziaria mondiale del 2007-2008. Le dichiarazioni fioccavano, la finanza internazionale sarebbe stata regolata meglio, i paradisi fiscali combattuti senza pietà, insomma si sarebbe messa la parola fine ai buchi neri di un sistema che copre tutti gli abusi. Le conclusioni di un G20 tenuto a Londra erano state molto chiare in proposito. Bene, gli stati di questo cenacolo promettevano misure contro i paradisi fiscali, brandivano la minaccia di sanzioni e assicuravano che l'epoca del segreto bancario era davvero finito, e invece non è affatto finito. Così Le Monde, con molti quotidiani internazionali, fa l'elenco di una situazione che, al contrario, dal 2007-2008 a oggi sembra essere addirittura peggiorata. I francesi in fondo lo sanno più di altri in queste ore. La Francia infatti è presa nel vortice del caso Kozak, uno scandalo di Stato che mette in discussione quelle doti elementari di onestà e trasparenza richieste a qualunque responsabile politico, soprattutto ai massimi livelli. Una questione di grave imbarazzo in questi giorni per il presidente francese François Hollande. Bene, e con questo abbiamo concluso. L'appuntamento con la rassegna stampa Europa è per sabato prossimo, poco dopo le 7.30. Buon fine settimana a tutti voi. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.